America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. All day long I bidi bidi bum, if I were a wealthy man, I wouldn't have to work hard. If I were a bitty bitty rich, idle diddle diddle diddle man. Fiddle on the Roof, il violinista sul tetto di Norma Jewison. Sheldon Harnick ha scritto le musiche, grandi Broadway show, grande film, la cultura ebraica in America. Abbiamo visto film di Steven Spielberg, per esempio, e quelli di Woody Allen. Chapter one. He adored New York City. He idolized it all out of proportion. He romanticized it all out of proportion. Better. To him, no matter what the season was, this was still a town that existed in black and white and pulsated to the great tunes of George Gershwin. Let me start this over. Chapter one. Manhattan, appunto, di Woody Allen, che ha questa grande apertura con la musica di Gershwin, George Gershwin, altro compositore ebreo che ha lasciato il segno sulla cultura americana, ma ce ne sono tantissimi: Salinger come scrittore, Philip Roth, Saul Bellow. E dunque c'è da chiedersi se c'è stato questo contributo così importante della cultura ebraica sulla cultura americana in genere. C'è stato l'equivalente di un contributo della cultura ebraica alla cultura italiana? Ecco, questo sembra meno evidente, ma proprio nei giorni scorsi qui a New York è venuto Alan Elkann, che è un autore italiano di religione ebraica, ha tenuto una conferenza al Jewish Museum e ha fatto gli stessi collegamenti che qua in America sono normali, ma che forse in Italia non sono tanto conosciuti. Buongiorno Alan. Buongiorno Mario. Dunque Alan, dacci un po' un'idea di qual è stato il collegamento di questi autori ebrei con la cultura italiana. Nel Novecento in Italia c'è stato un grande gruppo di scrittori italiani ebrei, partendo da Italo Svevo, Alberto Moravia, Elsa Morante, Natalia Ginzburg, Carlo Levi, Primo Levi, Umberto Saba, Franco Fortini, Giorgio Bassani e così via, che hanno scritto in italiano, vinto premi letterari, fatto intensamente parte della vita letteraria italiana. Perché è importante dire ebrei italiani? Perché questi ebrei, non so, Svevo si chiamava Ettore Schmitz, parlava benissimo tedesco, avrebbe potuto essere uno scrittore di lingua tedesca come Canetti, come Musil o come Kafka, invece no, voleva essere italiano e quindi si sceglie questo nome di Italo, per esempio, no? Cioè io credo che questa letteratura italiana ebraica è uno spicchio importante nell'insieme della letteratura ebraica che si esprime in tedesco, in yiddish, in ebraico, in francese e così via, ma non siamo da meno. Cioè, ho voluto mettere in chiaro che Alberto Moravia non è meno importante di Saul Bellow o di Norman Mailer, che Italo Svevo è uno scrittore molto importante e che lo humor di Woody Allen non è così diverso da quello di Zeno Cosini, il protagonista della coscienza di Zeno di Svevo. Ecco, se tu dovessi fare appunto un parallelo tra l'influenza di questi autori ebraici nella loro cultura in Italia e negli Stati Uniti, che parallelo faresti? Gli ebrei americani hanno avuto molto più influenza nella società americana perché sono molto più numerosi, e in più l'America è un paese di migranti, per cui ognuno ha portato la sua cosa, no? C'è la coscienza in Italia di questa presenza, del fatto che questi autori così importanti per la nostra cultura fossero tutti più o meno di religione ebraica e legati da un filo conduttore? No, perché c'è stato il dramma in Italia delle leggi razziali che non si possono dimenticare, per cui Alberto Moravia era tentennante sul suo ebraismo e comunque comunque Bassani era nella Resistenza e Primo Levi è finito a Auschwitz e Natalia Ginzburg ha perso il marito in prigionia e così via. Quindi le vicissitudini sono state complesse, quindi alcuni hanno come voluto forse anche dimenticare, no? Perché comunque questi ebrei, compreso Primo Levi, erano attaccatissimi al loro paese, all'Italia. Parliamo di Moravia un momento. Tu hai scritto un libro su Moravia. Raccontaci dell'ebraismo di Moravia. Suo padre era il fratello di Amalia Rosselli, lui era cugino primo dei fratelli Rosselli, quindi legato a una grande famiglia ebrea che in più ha un ruolo importante nella storia del nostro paese, della Resistenza. Ma nello stesso tempo lui, che così era nighittoso sulla questione ebraica, perché voleva essere soltanto uno scrittore senza un'etichetta, però poi chi erano i suoi grandi amici negli Stati Uniti? Saul Bellow e Norman Mailer. Cioè lui aveva comunque delle affinità con altri scrittori ebrei sicuramente. E c'era in lui una sensibilità che in parte è un'ansia che è tipicamente ebraica. Tiperno oggi racconta di un mondo ebraico romano che prende anche un po' in giro lui nei suoi romanzi, oppure non ci si accorge, ma credo che anche Saviano sia di origine ebraica ed è tipicamente ebraico in qualche modo denunciare l'ingiustizia, no? E ecco perché Saviano denuncia gli orrori che ci sono in campagna, nella camorra, eccetera, no? Tu sei uno scrittore, hai scritto molti romanzi, sei uno scrittore ebreo come Piperno. Chi sono gli altri? Ecco, questa tradizione va avanti come? Ci sono dei giovani che stanno venendo fuori oppure è una tradizione che ha avuto un suo momento storico e si è esaurita? No, sono giovani. Piperno è un trentenne, Saviano è un trentenne, ci sono giornalisti, ci sarà sempre questa presenza, perché gli ebrei sono il popolo del libro e della scrittura, c'è poco da fare. E la lingua italiana si vede che è una lingua molto congeniale, lo è anche per me, perché è una lingua affascinante, è una lingua che non è finita, non è una lingua ufficiale, definita e chiusa, è una lingua aperta con molta possibilità di ricerca, di semplificarla, di adeguarla, e quindi capisco, a me piace essere uno scrittore italiano. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguiteci su Twitter 24 America, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, visto che abbiamo parlato di cultura ebraica in Italia e in America, dedico a un cantante forse un po' meno conosciuto in Italia, ma per me grandissimo, di origine ebraica, Leonard Cohen, con Suzanne. Then she gets you on her wavelength, and she lets the river answer that you've always been her lover. And you want to travel with her, and you want to travel blind, and you know that she will trust you, for you've touched her perfect body with your mind. Da New York è tutto, Mario Pratero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24.